Incontri di Gianfranco Fabi. Forse un peccato interrompere Imagine di John Lennon. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a Raffaella Pannuti. Buongiorno e buona domenica a tutti. Cosa ricorda John Lennon con queste canzoni? Con questa... Mi ricorda che bisogna immaginare, che bisogna pensare a un mondo diverso, no? Le parole sono quelle. Certo. Io ci credo, insomma, e quindi... Sognarlo ma anche metterlo in pratica. Assolutamente. Raffaella Pannuti è presidente di ANT. Che cos'è ANT? Beh, la Fondazione ANT è nata a Bologna il 15 maggio del 1978, ormai 35 anni fa, e noi ci occupiamo di lotta contro il tumore a 360 gradi, quindi la prevenzione ovviamente, l'assistenza e la formazione di questo personale. Poi abbiamo una cosa che abbiamo inventato ed è solo nostra, ed è una parolina per noi molto importante, ma credo che farà una strada lunga, ed è l'eubiosia. Eubiosia significa le qualità che conferiscono dignità alla vita, la buona vita, ed è il nome da cui si è ispirato tutto il nostro progetto, l'ANT e l'eubiosia. Ecco, questa associazione, questa fondazione è stata creata da suo padre. Beh sì, è una cosa che io ho sentito fino a quando ero piccola, insomma, e l'ha fatta lui perché lui era un oncologo, lo è ancora, oncologo, era primario della divisione del Sant'Orsola Malpighi, e fondamentalmente si è reso conto che bisognava fare qualcosa in prima persona, impegnarsi in prima persona per questo tumore, insomma, e quindi ha inventato l'ANT, ha inventato un nuovo modo di fare assistenza domiciliare e ha inventato un po' di cose. Ecco, la vostra lotta contro il cancro è una lotta, diciamo, non solo scientifica, di ricerca, ma soprattutto di assistenza, di vicinanza, di accompagnamento dei malati. Quindi questa eubiosia di cui lei parlava è il fatto di considerare appunto la malattia, ma considerare soprattutto la persona. Assolutamente sì, noi parliamo infatti di sofferenti di tumore, non parliamo di pazienti, perché i pazienti sono poco pazienti in quel momento, devo dire, e noi assistiamo questi sofferenti nella fase avanzata e avanzatissima della malattia. Dal 1985, quando è cominciato questo progetto di assistenza domiciliare, abbiamo assistito oltre 90.000 sofferenti di tumore in tutta Italia, in modo completamente gratuito. 90.000 famiglie. È partita da Bologna questa realtà e poi si è diffusa. Si è diffusa in tutta Italia. Io mi sono chiesta perché ci fosse questa diffusione così a macchia d'olio, sia stata così capillare. Io credo il perché venga dal fatto che il valore etico della buona vita sia una cosa che la gente abbia voluto portare come bandiera a casa anche dei propri vicini di casa, quindi attraverso l'assistenza, attraverso la prevenzione, attraverso la formazione. Quindi l'eubiosia da Bologna è partita ed è andata in altre 9 regioni italiane, in Lombardia, dalla Lombardia fino alla Campania, alla Puglia, dove siamo molto radicati. Quindi ecco un'estensione territoriale che è basata essenzialmente sul volontariato. Sì, sono due le anime dell'ANT. Da una parte ci sono i volontari, coloro che hanno fondato la nostra organizzazione nel 1978 e da allora portano avanti questa sensibilizzazione sul tema della dignità della vita, e dall'altra parte i professionisti. Quindi se i volontari sono quelli che accompagnano e aiutano i professionisti nella raccolta fondi, negli uffici accoglienza, nella sensibilizzazione, dall'altra parte l'altra anima sono i professionisti. I nostri medici, infermieri, psicologi sono pagati grazie alle offerte raccolte dalle aziende, dai volontari, per andare a casa del sofferente in modo gratuito ma professionale. Ecco, quindi l'assistenza è gratuita ma il finanziamento avviene per altre forme, attraverso... Ci tocca lavoro sporco, è importantissimo. Beh, lavoro sporco, lavoro pulito, anche perché sollecita in fondo la responsabilità delle persone. Assolutamente. Come è cambiata negli ultimi anni il modo di, da una parte dei volontari, di approcciarsi un po' alla situazione come la vostra, dall'altra come la gente vede e si appoggia e sostiene, appunto, anche solo finanziariamente, comunque la cosa più importante poi per mantenere in vita una formula di questo tipo. Ecco, come è cambiata negli ultimi anni questo rapporto con il mondo esterno? Intanto siamo cambiati anche noi, perché prima eravamo solo a Bologna, adesso siamo una realtà nazionale, quindi bisogna cercare di coniugare quello che è lo spirito del nostro fondatore, quindi lo spirito da cui siamo nati, che è molto legato alla terra, molto territoriale. Anti in inglese significa formiche, e quindi noi siamo per la condivisione di un ideale, che questa idea è anche portarla avanti insieme. Ecco, questa è la cosa importante in cui noi crediamo. Sicuramente io credo che le persone siano più consapevoli in questo momento, abbiano più idea che bisogna partecipare alla vita sociale, bisogna cambiare, e quindi noi dobbiamo educare, dobbiamo aiutare queste persone a essere educate ed educare poi anche i propri figli. Quindi io credo che bisogna essere onesti, però dall'altra parte vedo che c'è anche fiducia nelle persone nel momento in cui donano, perché vedono quello che succedono, vedono i 3.600 persone che noi assistiamo ogni giorno, sono i loro vicini di casa, quindi c'è molto un rapporto fiduciario nei nostri volontari. Però anche voi siete molto trasparenti nella vostra attività, avete un bilancio sociale, avete un sito internet, possiamo ricordare l'indirizzo, che è www.ant.it, appunto, in cui si può avere delle informazioni. Però ecco, restando appunto alla realtà, quali sono gli ostacoli maggiori che c'è per un'attività come la vostra? Sicuramente la crisi economica non ha aiutato neanche noi. Dobbiamo pensare che in questo momento le persone non hanno di che vivere, quindi a volte sono senza lavoro, e quindi è ovvio che la donazione diventa una cosa secondaria rispetto alla necessità di sopravvivere. Quindi le donazioni sono calate, questo è indubbio in questo momento. Dall'altra parte ci sono degli ostacoli a volte che vengono dalle nostre stesse istituzioni. Io questo lo dico con molta amarezza, non soltanto nei nostri confronti, nei confronti di Ante, ma credo nei confronti di tutto il terzo settore. In questo momento sono state fatte delle disposizioni, sono in essere delle disposizioni che non favoriscono le donazioni, il 5 per 1000 non è ancora stabilizzato, non c'è attenzione nei confronti del terzo settore come un attore importante per quanto riguarda il welfare del nostro paese. Io in questo momento sto parlando di sanità sostenibile, noi ci occupiamo ovviamente di sofferenti di tumore. Quindi che cosa voglio dire con sanità sostenibile? Voglio dire che dobbiamo utilizzare al meglio le risorse che noi abbiamo. Un esempio molto semplice: una giornata di assistenza domiciliare fatta con medico, infermiere, psicologo, nutrizionista, tutti quanti gli specialisti che possono andare a casa del sofferente come fa Ant, costa meno di 30 euro. Una giornata in un hospice costa più di 200 euro, una giornata in ospedale costa 700 euro. Allora dobbiamo capire se vogliamo assistere poche persone con le risorse che abbiamo, o ne vogliamo assistere di più con la stessa qualità, con la stessa efficienza. Certo, anche perché appunto dovrebbe essere un compito dello Stato quello di garantire questi livelli minimi di assistenza, livelli necessari soprattutto poi per malati così importanti come quelli di tumore, senza fare nessuna classifica tra le malattie ovviamente. Ecco, però appunto voi con la vostra attività in fondo fate risparmiare la società, eppure siete un po' proprio considerati come qualcosa che è utile indubbiamente, che però appunto tante grazie, noi andiamo per la nostra strada. Ma sì, devo dire che intanto io credo che si debba parlare di malattie croniche. Nel momento storico che stiamo vivendo, le persone che avranno un'età superiore ai 60-70 anni aumenteranno, quindi aumenteranno le persone con malattie croniche, aumenteranno le persone che hanno bisogno di cure. Allora in questo senso noi dobbiamo capire i nostri politici, devo dire che una parte di questo ovviamente la strada la stanno seguendo. Bisogna pensare che l'assistenza domiciliare fatta da altre organizzazioni, che ce ne sono sul territorio e sono molto brave e molto agguerrite, quindi complimenti anche a loro, queste organizzazioni possono insieme alle ASL fare in modo che la sanità possa avere attraverso l'assistenza domiciliare un respiro che permetta di destinare altre somme magari risparmiate in altri settori della sanità. Certo. Come la parte... Ecco, dice, fortunatamente in Italia sono molte le iniziative di questo tipo, molte iniziative un po' in concorrenza tra loro, ma la concorrenza è benefica. Poi. Assolutamente, io credo che sia importante, credo che bisogna parlarsi però, quindi anche questo è una cosa significativa. Ci sono delle associazioni che raccolgono le organizzazioni che fanno assistenza domiciliare, e quindi si cerca di coordinarsi. Dico si cerca perché in effetti a volte è difficile, però questo bisognerebbe superarlo. Ecco. Imagine. ancora con le note, con la voce di John Lennon, con Imagine, riprendiamo il nostro colloquio con Raffaella Pannuti, presidente animatrice di ANT, l'Associazione Nazionale dei Tumori. Abbiamo spiegato nella prima parte come si svolge questa attività essenzialmente dedicata all'assistenza domiciliare dei malati attraverso sia professionisti sia volontari. Accennava la dottoressa Pannuti anche alle difficoltà in questo momento di crisi economica nella raccolta di fondi che sono necessari per sostenere delle attività gratuite, infatti, e difficoltà anche di carattere normativo giuridico. Sembra che qualche volta i nostri legislatori, più che agevolare, complichino le cose. Quando si pensa a queste organizzazioni si pensa al volontariato, ma non è tutto volontariato. No, è no profit. Secondo me bisogna capire bene che cosa significa volontario e che cosa significa invece professionista che lavora nel non profit. Non profit è un'organizzazione che non ha scopo di lucro, certo. Quindi tutte le offerte che noi raccogliamo le destiniamo al nostro fine istituzionale, che è la ricerca fondi e l'assistenza. Io credo che i servizi non possano essere fatti dal volontario, che di per sé, come sua filosofia, è una persona che ha un altro lavoro, decide di dedicare un po' del suo tempo libero per attività filantropiche o appunto di volontariato, ma non può essere presente a casa del sofferente 24 ore su 24. Quindi i servizi che il non profit fa devono essere fatti da professionisti. Anche perché non dobbiamo confondere il non profit con qualcosa di improvvisato. È un settore che ha dei servizi ben precisi. La Fondazione ANT e come tutte le altre organizzazioni del volontariato devono essere basate sull'efficienza e l'efficacia del servizio che vengono fatte. Ecco, quindi avanti. Per questo servizio ci sono delle persone che vengono pagate per questo, che sono professionisti specializzati, infermieri, sono oncologi, medici professionisti che vanno a casa del sofferente 24 ore su 24, anche perché il nostro tipo di aiuto che noi portiamo negli ultimi 100 giorni della vita del sofferente deve essere un impegno professionale fatto da medici, infermieri. Ecco, voi avete appunto questo impegno, mi pare che superate 1 milione di giornate di assistenza. Sì, ogni anno assistiamo circa 9.000 sofferenti di tumore e quindi le giornate di assistenza sono circa quasi 1 milione, 1 milione e mezzo ogni anno. Giornate di presa in carico, significa che il sofferente entra in assistenza ANT e viene portato fino alla fine della vita. Le do un parametro di efficienza ed efficacia di questo servizio. Noi vogliamo stare vicino alla famiglia, noi vogliamo che il sofferente possa avere una dignità della vita fino all'ultimo momento, senza accanimento terapeutico, ma neppure senza l'abbandono assistenziale. Quindi chiaramente no all'eutanasia, ma no anche all'accanimento terapeutico. In questo senso l'80% dei nostri assistiti muore a domicilio. Significa dare a questa famiglia una serenità in un momento drammatico dell'esistenza della famiglia stessa fino all'ultimo giorno. E questo è importantissimo, questo è importantissimo. Pensi che i dati Istat parlano di un 50% che riesce a realizzare questo desiderio di una morte privata. Noi, grazie a un gruppo dedicato alle cure palliative, ma non è soltanto ANT, io sono sicura anche per gli altri gruppi di cure palliative, si riesce a stare a casa fino all'ultimo momento, vicino alle proprie case. È un po' un tornare alle tradizioni, la tradizione antica. E comunque c'è sempre anche tra i vostri principi quello di pensare che la malattia sia reversibile, la speranza che la malattia si possa comunque vincere, che nulla deve essere lasciato da parte per cercare di portare, non tanto di prolungare la vita in senso unicamente materiale, ma per cercare di vincere la malattia. In questa prospettiva è importante anche la prevenzione. La prevenzione è importantissima. Ecco, ma come si concilia un discorso di prevenzione con un discorso di assistenza? L'ANT è nata con l'obiettivo di combattere il tumore a 360 gradi. Siamo partiti nel 1978, prima con la formazione, confesso, nel senso che facevamo corsi per istruire i medici e gli infermieri su questi temi. Poi abbiamo cominciato con l'assistenza domiciliare nell'85 e dopodiché, nel momento in cui avevamo reso forti le nostre basi, abbiamo cominciato a occuparci anche della prevenzione. La prevenzione è importantissima anche da portare nelle scuole, quindi non soltanto prevenzione con visite che noi facciamo, ma anche prevenzione nelle scuole per parlare di solidarietà, per parlare di volontariato, per parlare di un'educazione alla prevenzione. Quindi una capacità anche di riconoscere i sintomi fin dall'inizio, una capacità di avere appunto questa prospettiva che se si scopre anche una malattia grave come questa, comunque all'inizio può essere vinta. Noi stiamo parlando di un tema molto forte in questo momento. Devo dire una cosa positiva. da 4-5 anni a questa parte, dal momento della diagnosi passano più di 5 anni, quindi la sopravvivenza media della persona nel momento in cui viene diagnosticato un tumore è aumentata, ma è aumentata anche la dignità di questa vita, perché a volte, voglio dire, uno ha un tumore e ha delle problematiche gravissime. Ecco, invece in questo momento c'è stato un dato positivo e questo è molto significativo. Noi per esempio facciamo la prevenzione per il melanoma, lo dico come esempio perché il melanoma è un tumore che colpisce 10-15 persone ogni 100.000 abitanti, ma nel momento in cui viene diagnosticato in tempo e quindi prevenzione, si può togliere tranquillamente e non succede niente. Nel momento in cui invece non viene visto, diventa irreversibile, ecco, in questo senso. Quindi ci siamo occupati di questa cosa. L'educazione a guardare appunto i sintomi, non aver paura di farsi diagnosticare. Ecco. Ecco, in questa prospettiva indubbiamente ci vuole un coordinamento anche con il Servizio Sanitario Nazionale, con quelle che sono le strutture pubbliche che svolgono questa attività. È una cosa facile coordinare, aiutarsi? Che cosa chiedete voi come organizzazione volontaria, organizzazione non profit, alla struttura pubblica? Allora, intanto noi chiediamo che nel momento in cui si parla di tagli, i nostri amministratori parlano di tagli nella sanità, convocassero contemporaneamente a un tavolo quelli che si occupano sul territorio di sanità e in questo senso le organizzazioni non profit. Allora, si può fare qualcosa per riuscire a comunque dare questi servizi con i soldi che abbiamo? Io credo di sì. E quindi io chiedo alle istituzioni di aprire un tavolo con le organizzazioni che sono sul territorio. Faccio un altro esempio, purtroppo invece negativo. Nella regione Lazio noi avevamo una convenzione nel 2010, quindi 2 anni fa, da 40.000 euro. Nel 2012, quest'anno, non ce l'hanno ancora rinnovata e siamo ormai a fine anno. Avevano altri problemi nella regione Lazio. Ma infatti io sostenevo che con 2 feste, 40.000 euro, noi riuscivamo ad assistere 100 persone. Siamo stati riconvocati al tavolo e continuano a trovare dell'ostruzionismo. E quindi questo ci dispiace moltissimo. Sì, sì, si può fare della facile ironia, proprio il dramma è che poi è vero che questi fondi rischiamo pubblici, di chiudere. Ecco, che questi fondi pubblici sono importanti per dare la base appunto di attività su cui poi può innestarsi anche un'iniziativa privata, appunto le donazioni private, che in un'ottica appunto di sussidiarietà devono essere appunto complementari rispetto a un impegno della struttura sussidiario pubblica. Ma non delegato completamente al cittadino, come lei giustamente ha sottolineato. Quindi io chiedo un minimo di impegno in questo senso. Ecco, in questa prospettiva quali sono i vostri progetti? Abbiamo cominciato con Imagine, che cosa immagina per il futuro? Qual è l'obiettivo nei prossimi mesi per la sua associazione, per la sua fondazione? Beh, l'obiettivo che noi ci siamo dati è quello di comprare un altro mammografo, ne abbiamo 2 e vogliamo fare anche delle altre mammografie su un autobus della solidarietà. Noi andiamo a casa delle persone con l'assistenza, abbiamo un autobus dove adesso c'è un mammografo, ne vogliamo un altro perché è anche la prevenzione per i tumori mammari è importante e da sola la sanità pubblica non ce la fa. L'altra cosa che io vorrei fare è dare le risposte a tutti quelli che ce lo chiedono. La solidarietà significa risposta al richiamo della sofferenza. Da soli noi non ce la facciamo. Chiediamo di, insieme alle istituzioni, di poter dare queste risposte alle persone che verranno a chiedere assistenza da noi. Quindi poter allargare anche la platea dei volontari che partecipano alla vostra importantissimi. I volontari sono l'anima della nostra fondazione. E adesso secondo me c'è un po' una crisi del volontariato, perché le famiglie si trovano in difficoltà, come ho detto prima, quindi fare il volontario è diventato più difficile, ecco, insomma. Io credo che però le persone cerchino i modi per farlo, quindi noi dobbiamo stare vicino e trovare l'occasione per riuscire a coinvolgere queste persone. Ecco, se un giovane volesse dire faccio 6 mesi di volontario di servizio civile personale presso di voi, potrebbe farlo? Lo potrebbe fare. Io poi gli chiederei, dico, magari una volta tanto, ogni tanto qualche domenica, fai un banchetto per noi, ci auguriamo che i ragazzi si avvicinino a noi, una cosa importante, attraverso anche i social network, no? Ci sono Facebook, Twitter, adesso si usano ed è giusto utilizzarli, e devo dire che i ragazzi sono molto attenti a queste problematiche. Utilizzarli appunto per sollecitare una responsabilità, responsabilità, partecipazione appunto a una realtà che comunque il suo bilancio personale possa essere positivo. Lei è diciamo personalmente si sente di compiere non solo un dovere ma anche di svolgere appunto un compito di responsabilità all'interno della società. Beh, io credo che il nostro compito sia proprio questo. Io mi alzo tutte le mattine con grande preoccupazione per la responsabilità di 400 persone, di 3.600 malati che dobbiamo assistere, però dall'altra parte con una grande forza che mi viene appunto da questi sofferenti che stiamo assistendo e dai volontari che ci sono vicino e da tutti i parenti dei pazienti che ci ringraziano per l'attività che stiamo svolgendo. E quindi questo è un ringraziamento che io giro ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri psicologi. Io noi mi andiamo sento avanti. Di girare da parte dei nostri ascoltatori questo ringraziamento a lei, grazie mille. Per chi vuole saperne di più, www.ant.it. sul web. Grazie a Raffaella Pannuti di essere stata con noi questo pomeriggio in questa domenica. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.